Daisy è un nome di fantasia perché la ragazza ci ha chiesto di rimanere in anonimato perché ha paura. Daisy stava lavorando, è stata avvicinata da una coppia eterosessuale, un uomo e una donna, giovani, italiani, è normale, sono coppie che chiedono prestazioni ai sex worker, quindi sale in macchina, si accostano poi in un parcheggio in campagna che è utilizzato dalle trans sex worker, solo che stranamente i due ragazzi decidono di scendere dalla macchina per fumare. Effettivamente è una cosa strana, quindi Daisy per stare al sicuro decide di scendere anche lei, solo che da dietro gli alberi al buio sono sbucate altri due ragazzi che l'hanno colpita con dei bastoni di ferro e poi dopo anche la coppia ha iniziato a inveire contro di lei con altri bastoni. Hanno cercato di farla cadere, non ci sono riusciti e poi lei in qualche modo è riuscita a mettersi in salvo, solo che adesso è a casa col marito con delle contusioni ma non riesce a camminare. Oggi in teoria doveva andare in ospedale perché c'era bisogno almeno di un referto medico che dimostrasse l'aggressione, però al momento ho ancora paura di andare davanti alla polizia, avendo avuto traumi in Sud America in carcere, non riesce a fidarsi delle istituzioni. Certo, ecco, faccio un passo indietro appunto sul momento dell'aggressione, quindi dalla dinamica che ci hai raccontato sembrerebbe quasi una trappola organizzata. Sì, perché sia chiaro, le aggressioni verso le donne sex worker e trans sex worker sono all'ordine del giorno. Spesso i clienti sotto sostanze stupefacenti o sotto alcol aggrediscono le ragazze in strada. In questo caso invece no, è stata architettata l'aggressione, è stata studiata a tavolino. Per questo noi abbiamo osato dire che è stata proprio un'aggressione di stampo fascista, perché è proprio nella dinamica dell'aggressione. In realtà, appunto, aggressioni di questo tipo ne vediamo e vediamo, almeno avendo un po' il polso degli articoli di giornale, che sembrano in aumento. Voi dal MIT avete questa percezione che siano in aumento queste aggressioni, magari anche per il clima politico che si respira in Italia? Allora, forse di aggressioni fisiche stiamo iniziando adesso, non solo per i sex worker, ma per la comunità trans in generale. Noi al MIT vediamo che molte persone ci dicono di aver paura, di temere aggressioni in strada di notte, ma anche di giorno, cioè la gente non ha più paura di dire quello che una volta era censurabile, l'insulto gratuito anche al supermercato. Sembra ormai normale, ormai la violenza verbale è stata sdoganata non solo in rete, ma anche nella vita quotidiana. Certo, ecco, voi nel comunicato appunto del MIT fate una riflessione anche sul concetto di questa tanto sbandierata sicurezza. Sì, per noi sicurezza vuol dire altro, non vuol dire difenderci da un nemico immaginario che viene dall'Africa, ma è una questione nostra interna del nostro paese. Sappiamo benissimo nella storia degli ultimi 50-40 anni di questo paese, Bologna lo sa benissimo, che il nemico è interno, il nemico è il nemico nero, è il fascista. E lo dimostra anche la cronaca di oggi, di questi giorni, con il ritrovamento di un arsenale di militare, e questo non lo troviamo né nelle occupazioni di sinistra né tra i compagni, cioè lì è violenza e quello è il nemico della nostra società oggi, che è totalmente interno per una questione di potere. Certo, tu raccontavi prima che Daisy non se la sente di denunciare. No, stiamo cercando di convincerla, di sostenerla in qualsiasi modo, stiamo cercando insieme a lei di capire in che modo poi portare avanti una querela. Noi ci terremo a denunciare perché non può uscire così senza una querela, ecco. Purtroppo l'istituzione, che sono un po' i carabinieri o la polizia, se si presenta a un'associazione ti rispondono che deve essere la persona interessata a denunciare. Qui la decisione è in mano a chi è stata aggredita. Certo, È è molto giusto che sia così, difficile, insomma, no? sì, ma è difficile, cioè lì barcamenarsi tra la responsabilità politica di dover denunciare l'accaduto e poi la sensibilità personale. Noi come MIT ci tenevamo a denunciare pubblicamente l'accaduto, ma da un punto di vista penale ci atteniamo alla sensibilità della singola. Io ti ringrazio nella speranza che episodi del genere non si registrino più. Speriamo, ma dobbiamo essere molto vigili e attente. Certo, grazie mille. Grazie a te.